festuccia radio, ma senti si esti sciurrarange, no profumo a così fino, tinto core fedela, e tu dici o parto addio, Non c'è più E chiuta

Thank you.

peso il cuore sarai per me il solo amore. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò e nessuna mai più ormai per me. Sei tu che m'hai rubato il cuore. Ti vedo tra le rose, ti dico tante cose, se il vento lieve t'accarezza, un profumar di giovinezza. Oh,